On Broadway, George Benson, la via del teatro e care redattrici della culturale, si continua su questa via e questi percorsi. Quante cose quest'oggi, quindi la vostra forza che è indispensabile non solo per la nostra redazione ma per la nostra emittente. Come ho sempre sostenuto, una ninfa vitale, anzi una linfa vitale, linfa perché insomma la giovane età, ecco. Grazie, grazie. Non è esattamente un complimento. Sì, no, ma io e Denise effettivamente siamo coetanee. Vedi? Sì. Per te è un grande complimento. È un grande complimento. Porto a casa. Teatro Laura Betti, benvenuto al Breakfast Club Casalecchio di Reno al Via La Stagione, in collaborazione con Ater Fondazione, che ne avrà l'organizzazione e la curatela. E per quanto riguarda la possibilità di abbonamenti dal 16 ottobre, sia per i singoli spettacoli in vendita dal 6 novembre, la possibilità, mettendo con grande vantaggio un pubblico attento in quel di Casalecchio alle porte di Bologna, ma non solo, con uno sguardo in questo caso bivalente, perché lo dà sia alla di città metropolitana che è al centro della nostra città. Per Ater e anche per la direzione e la consulenza artistica, un'operazione importante che, ascoltando le parole di Claudio Cumani a proposito di consulenza per la parte artistica di Ater Fondazione, esattamente portando tutto ciò, di solito chiedo i fili conduttori riportati con un termine così immediato, è quello che più mi ha portato a dare una descrizione a tutto ciò, è coraggio. Allora, intanto io dichiaro che con una malcelata emozione finalmente posso fare conversazione con Claudio Cumani, che vedo sempre in diverse presentazioni ma mai abbiamo avuto la possibilità di conversare viso a viso. Allora buongiorno e bentrovato. Buongiorno, come dire, l'emozione è tutta mia, perché io in realtà faccio il tuo mestiere, continuo un po' a fare il tuo mestiere, sempre meno, e poi ho avuto questa offerta, possibilità di coordinare un po' il lavoro come consulenza artistico di Ater. Ovviamente questo è un onore, un piacere per me, e quindi non dico che sono andato dall'altra parte della barricata, ma ho guardato con un occhio, sto guardando con un occhio all'altra parte della barricata. Più completa quindi la visione. A questo punto, a proposito di visione, entriamo nei percorsi che ci proporrà questa stagione. Sì, allora guarda, io intanto vorrei dire una cosa a proposito del teatro di Casalecchio, una cosa, come dire, generale, nel senso che è un teatro che ha vissuto molte vite e molte stagioni, è un teatro che ha avuto molte gestioni, cioè ha avuto le cooperative, no? Il teatro presenza a suo tempo, teatro evento, e poi è arrivato l'ERTE, e adesso da 10 anni c'è l'ATER. Ha cambiato nome, che è una cosa inconsueta per un teatro nell'arco di tutto questo periodo di tempo, perché si chiamava Comunale, poi si è chiamato Testoni e poi si è chiamato Pubblico, e adesso finalmente si chiama Laura Berti. Però è un teatro che, con tutti questi cambiamenti, ha avuto la capacità di mantenere sempre dritta la barra su una questione, che è l'attenzione al contemporaneo, all'innovazione e a quello che passa attorno. È un teatro, secondo me, coraggioso, e quindi è un teatro che va incoraggiato, se consenti il gioco di parole, su questo versante, sul coraggio proprio. La stagione è una stagione di 10 titoli, tra l'altro sono 10 anni che Ater gestisce questo teatro, è una coincidenza non so quanto cabalistica, ed è una stagione che si muove appunto esattamente su questo filone. Poi arriviamo, se mi vuoi chiedere qualcosa, ovviamente sui titoli, lavorando sulla qualità, lavorando sull'interdisciplinarità, lavorando sul ragionamento. Ecco, i grandi nomi servono, sono utili, sono necessari, però creare delle situazioni, avere degli spettacoli che consentono di riflettere, io credo che sia molto importante. Si sente che siamo colleghi, anche perché mi hai bruciato piacevolmente la domanda successiva, filo conduttore, parola trainante, ho percepito che è coraggio, esattamente. Dal mio punto di vista questo, e poi però vorrei dire è contemporaneo, è nuovo, cioè a me piace molto questo nuovo con la N alta, non lo usiamo noi nei giornali, perché credo che sia una caratteristica fondamentale di questo spazio, che ha un, come dire, ulteriore addendo, ovvero è uno spazio che si deve rapportare con un sistema teatrale cittadino molto molto ampio, molto vasto, ed è in tutti questi anni è un teatro che però ha saputo sempre trovare una collocazione giusta all'interno della geografia teatrale cittadina, curando principalmente il proprio bacino, quindi voglio dire creando una comunità, una collettività che lo sostiene, ma al tempo stesso però attirando, grazie grazie alle offerte proposte, attirando anche un pubblico, per così dire, cittadino, ecco. Spesso, per quanto riguarda palcoscenico e teatro, di incontrare Claudio in veste appunto di giornalista, di redattore. Quando mi sono presentato per la conferenza stampa a Laura Betti, ho detto ok, boh, dico forse un caso di omonimia, non so, insomma, ero un pochettino curioso di tutto ciò. Ok, intervisti Claudio e mi sono ritrovato Claudio Cumani, che ho sempre avuto invece come collega al mio fianco in diverse presentazioni, ed è stato veramente un piacere ritrovarci in questo ruolo un po', non dico scambiato, ma decisamente alternativo, ecco, un grande onore per me. E infatti nella seconda parte, seppur breve, di presentazione, approfondiamo l'inizio, la partenza di questa stagione. Arriviamo fino al termine del 2024, perché seguiremo la programmazione Laura Betti per tutta la stagione del Breakfast Club. L'articolo sul sito www.radiocittafugico.it per saperne di più. Intanto concludiamo la conversazione con Claudio Cumani. E come si comincia e quando si comincia? Quando e come si comincia? Allora, si comincia il 9 novembre con uno spettacolo di Ottavia Piccolo, che è dedicato a Matteotti, uno spettacolo, come dire, un reading, ma accompagnato da alcuni musicisti. Il testo è di Stefano Massini. Ecco, qua mi piacerebbe dire che Ottavia Piccolo, che non tanto frequentemente passa da queste parti, è stata la prima a interpretare Stefano Massini. Cioè Massini, quando ancora non si sapeva chi fosse, è stato Ottavia Piccolo a trovarne dei testi, a portarle per la prima volta in teatro. Poi, a proposito di gente che non si vede tanto da queste parti, c'è Davide Nia. Davide Nia è l'11 dicembre, è un artista che io stimo molto, che amo molto, è anche un amico. Lo spettacolo che fa è uno spettacolo sulla mafia, ed è un po', come dire, è anche molto autobiografico, si chiama Autoritratto, non a caso. Ci ha lavorato molto, ma anche in maniera molto sofferta, e credo che sia un'occasione davvero, davvero preziosa. Poi c'è, lo spettacolo di Capodanno, con Franz Campi e Barbara Giorgi, quindi musica, ma anche comicità, Gianni Fantoni. Lo ricordo, adesso non ce lo ricordiamo. Ferrarese, non ce lo ricordiamo dai tempi di Costanzo, quando Costanzo gli diceva: Fantoni, faccia la brioche, no? In realtà è cresciuto con un percorso molto importante, per cui adesso, per esempio, con lo stabile, con il Teatro Nazionale di Genova, sta facendo Fantozzi, di cui ha acquisito i diritti, quindi insomma ha un percorso, ed è una persona squisita. Ne è un interprete, tra l'altro, io da appassionato del grande Paolo Villaggio, ne è un interprete molto lucido. Non è facile portare tutto ciò, non è facile. Va bene, grazie molto. Grazie a te, Claudio, grazie. L'articolo sul sito è tuo, Dennis, per Laura Betti? Assolutamente, quello sì. Ne abbiamo certezza. Ultimamente ne ho scritti diversi. Brava! Quindi mi sono appassionata ormai. come tanta passione, come ho detto, il filo conduttore di Coraggio arriva da Ater, di cui in conclusione, in finta diretta, come mi piace definire queste conversazioni, così che ritrovo anticipando la conferenza stampa di presentazione con Antonio Volpone, direttore Ater Fondazione, e anche con Marta Albertazzi, responsabile della comunicazione. Sentiamo le loro parole in questo ultimo segmento di dialogo per quanto riguarda la stagione 2024-2025 Teatro Laura Betti. Possiamo avviare una finta diretta come di solito sono abituato. Siamo in compagnia di Antonio Volpone, direttore di Ater Fondazione. Aggiungiamo una voce a questa conversazione. Marta Albertazzi, responsabile comunicazione di Ater Fondazione. Allora, l'arrivo e questo incontro con Casalecchio, com'è stato e se ci puoi dire qualcosa di più? Allora, anzitutto è una grande soddisfazione perché è il decimo anno di collaborazione con l'amministrazione comunale e quindi per noi è anche un motivo di orgoglio, siamo molto soddisfatti. Per noi il Teatro di Casalecchio è un teatro importante, alle porte di Bologna. Noi gestiamo, siamo in circuito regionale multidisciplinare, quindi gestiamo vari teatri su tutto il territorio, però per noi Casalecchio davvero costituisce un teatro rilevante. Abbiamo avuto complessivamente su quasi 35 spettacoli la stagione passata oltre 9.000 spettatori e questo per noi è un dato importante e speriamo adesso dal 29 di novembre, quando inizierà la nuova stagione, di confermare i risultati se non migliorarli. Allora, a proposito di comunicazione, si aggiunge un palcoscenico importante alla rubrica in scena del Breakfast Club. Era da tempo che vi davo la caccia, finalmente l'incontro è avvenuto. Allora a questo punto ti chiedo, Casalecchio, città metropolitana, ma punto di incontro tra quello che può essere, oltre che il centro, la pianura, ma anche uno sguardo verso l'Appennino. L'importanza di tutto ciò? L'importanza di tutto ciò è sicuramente la specificità del territorio. Casalecchio è una sfida importante perché comunque è molto vicino alla città di Bologna e non per questo però deve mancare di coraggio, lo diceva il nostro consulente Claudio Comani, è un teatro che è stato coraggioso e deve continuare ad esserlo. La comunicazione deve sicuramente supportarlo anche in quest'anno, in questa sfida, con gli strumenti tradizionali e soprattutto quelli digitali che sono ormai insomma imprescindibili anche per un teatro che per definizione stessa è reale e fisico, ma non può più prescindere dal digitale. Ho così battezzato come filo conduttore parola trainante ascoltando le parole di Claudio, una sorta di coraggio, una realtà coraggiosa. Perché? Perché all'essere le porte, le sorgere le porte di Bologna non è certo un contesto facile. Credo che Casalecchio negli anni passati, ancor più in questi ultimi 10 anni, abbia raccolto positivamente le sfide e le abbia superate, quello che cerchiamo di fare anche quest'anno con una programmazione che comunque si fa sicuramente notare. Di cui parleremo poi nella nostra trasmissione in scena del Breakfast Club, entrando poi nel dettaglio. Io vi ringrazio tantissimo e vi auguro buona giornata. Grazie mille. Grazie altrettanto. Seppur tornando in diretta, si può viaggiare radiofonicamente. Anna, tu ne dai una non prova solo. non solo vicini, ma anche spostandoci con voli intercontinentali. Le frequenze arrivano ovunque. È il preludio per... E appunto, a proposito di aspetti legati anche a una classicità, a un'epica di Omero, presenteremo Ithaca. Ma certo, Ithaca ci viene in mente nell'immediato la famosa isola, ma Ithaca in bolognese vuol dire anche sei a casa. Beh, insomma, lo scopriremo tra poco, perché ogni tanto io ho delle interpretazioni che sono abbastanza fantasiose, ma tra pochissimo avremo un piccolo approfondimento in conclusione della rubrica In Scena con Ithaca. A tra poco, dopo la pubblicità.